Futura 1993, io sono Francesca e oggi parte una nuova puntata del nostro format, quindi 16.30 ogni martedì in onda su radiocittafugico.it all'interno del palinsesto di Fugico Factory. Io vi ricordo che per chi è dalla zona, ormai lo sapete benissimo, potete ascoltarci sulle 103.1 FM, per chi non lo è invece è sempre attivo il nostro sito, quindi www.radiocittafugico.it, dove vi ricordo ancora una volta che potete ascoltare le nostre interviste. Infatti la redazione di giorno in giorno pubblica svariati contenuti, tra cui anche i nostri podcast con le nostre interviste. Sicuramente verrà caricata anche quella di oggi, in questo clima un po' post-apocalittico da coronavirus, in cui noi che stiamo a Milano ci stiamo ritrovando, aiuto! abbiamo deciso di scegliere un artista particolarmente danzerino, proprio per stemperare un po' questo allarmismo degenere che sta divagando sui social. Ragazzi, qua a Milano non si trova nemmeno una bottiglia d'acqua e nemmeno i bastoncini di pesce surgelati, quindi ve prego, ritorniamo tra di noi, ritorniamo sulla terra. Abbiamo bisogno di della normalità, abbiamo bisogno della musica, e quindi vi invitiamo ad ascoltarci sempre e comunque, però insomma, ve prego, non fate le spese da, non so, da apocalisse, perché nessuno ha gridato alla fine del mondo, quindi torniamo in noi. Vi dicevo che l'intervistato di oggi è uno dei nostri preferiti, quindi il progetto musicale si chiama Mille Punti e noi parleremo con Eddie. Sicuramente vi sarà capitato di vedere una delle nostre interviste sui nostri magazine partner, oppure vi sarà anche capitato di venire al Sofa Concert di ottobre al Dopa Hostel, perché infatti è stato uno degli ospiti del format musicale in via Ernerio 32. Quindi ci ascoltiamo un suo pezzo e poi in onda con noi Eddie per qualche domanda. Thank you. Freddy. Poi, ciao. Ciao, bene, tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Stai sopravvivendo a Milano barricata. Madonna, sembra veramente... No. Davvero, guarda. Cioè, il set di un film, cioè, è assurdo. No, guarda, ma innanzitutto benvenuto, in radio non c'eri mai stato, sei uno dei pupilli di Futura, ormai ti abbiamo chiesto tutto, però no, in realtà c'è ancora qualcosa da chiederti. Io volevo sapere, è finito adesso il tour di Retro Futuro, quindi proprio il 6 febbraio con l'ultima data, com'è andata questo giro pazzesco che hai fatto? Com'è stato? Ah, è stato bellissimo. Diciamo che già di partenza per me era, come dire, tutto una grande vittoria, nel senso che fare il mio progetto così e ripartire dopo lo scioglimento della band, di tornare sul palco così, era già, come dire, poi una grande soddisfazione. Poi diciamo che il mio progetto che dà il suo meglio ovviamente dal vivo, no? Essendo molto così ballerino. Sì. E quindi è stato molto figo che, diciamo, data dopo data si è creato sempre più un mood davvero festaiolo, no? Assolutamente. E quindi poi sei sempre stato un po' l'apice, insomma, la data finale con la formazione allargata, abbiamo spinto particolarmente. Senti, come sei malinconico, già ti manca il live. Si sente dalla voce. Sì, molto. Ma sì, no, devo dire, poi a me piace molto andare in giro, stare in tour, quindi mi manca anche proprio quella dimensione, quella forma lì, no? Sei sul palco, così sono delle cose che ti creano di più, quindi poi quando ti fermi dopo un anno viene proprio il magone. Ma io so che il 6 eravate anche in formazione allargata, vero? Giusto? Sì, ecco. Praticamente abbiamo fatto un mix di tutti i musicisti che hanno girato con me quest'anno, perché loro impegni, chiaramente avevo praticamente due formazioni. E la cosa bella è che abbiamo fatto questa formazione allargata con anche appunto percussioni, suoni dal vivo, senza mettere niente in base, no? Sì. E quindi è stato tutto a filo diretto. È stato proprio bello. Sì, poi è stato bello perché è stato, come dire, una nuova, come provare una nuova strada che potrebbe prendere il mio progetto. Ecco. Quindi è una cosa un po' più corale, diciamo, più da big band. Ma infatti, guarda, hai proprio anticipato la domanda che volevo farti, ma questa sperimentazione appunto sarà un qualcosa che ritroveremo nel tuo progetto in futuro, oppure è stata, non so, una sperimentazione ad hoc per quella serata? Guarda, adesso io sto scrivendo i nuovi pezzi, sto pensando al nuovo album così, e ancora non ha una forma definita. Vedremo, a me piacerebbe molto perché è stato veramente figo e penso che sia stato veramente un passo in avanti in quello che era il nostro live, quindi mi piacerebbe sicuramente che fosse qualcosa che si riproporrà in futuro. Chiaro, comunque di solito si chiede agli artisti di riassumere il proprio album che sta per uscire o comunque che è appena uscito in poche parole, no? Io te lo chiedo appunto dopo tanti live, dopo tanti feedback di amici e insomma e non. Riassumimi in poche parole il tuo primo album del progetto. Direi divertente. E allo stesso tempo abbastanza malinconico per i testi, le melodie così molto mediterranee, diciamo. Sì. E psichedelico, perché comunque c'è quella cosa lì anche. Quella cosa lì. Sì, così. Ma hai sicuramente un progetto da un immaginario molto definito e forte. Quindi io so che tutte queste sensazioni, insomma, derivano dal tuo modo d'essere, quindi sono cose che appartengono al progetto, ma ancora prima a te. E come sei riuscito a portarti tutto questo bagaglio sul palco? Guarda, in verità, come dicevi tu, è una cosa che è molto mia, nella mia personalità, diciamo, più dal palco, nella vita quotidiana, quindi è stato un continuum abbastanza naturale. E poi chiaramente il palco è un po' come quando vedi una persona da lontano, no? Che non è che vedi proprio tutti a fuoco. I dettagli, così vedi solo un po' a grandi linee, quindi magari devi un po' come dire, esagerare alcuni tratti per renderli un po' più chiari, sì, a chi ti sta vedendo da fuori, no? Sì. Quindi magari, non so, un vestito più esoso, un modo di... Hai detto qualcosa proprio... di preciso, un po' di alcune basette vistose e delle camicie vistose, no? Tipo sì, non so, poi l'ultimo live era proprio, cioè, purtroppo Achille Lauro mi aveva rubato la tutina, eravamo su quell'anda lì, hai visto, cacchio. Cioè, che è un po' più difficile, no? Sì, esatto. Ma c'è qualcosa di totalmente diverso che stai ascoltando, quindi, da tutto questo tuo mondo che ormai conosciamo bene? Sì, guarda, sicuramente mi piacerebbe farmi influenzare anche da robe un po' diverse da quelle che sono state le mie referenze finora. Ti dirò, io voglio molto bene al mio Discovery Weekly di Spotify. Devo dire che riesce sempre a farmi trovare delle band assolutamente sconosciute e fighissime che mi piacciono molto, sono molto in linea con i miei gusti. Grazie. E quindi devo dire che mi sto allargando molto da quel punto di vista, perché poi alla fine se ti fai consigliare dagli amici così, alla fine io mi sono un po' sempre quelli. Esatto. Mentre invece ultimamente sto ascoltando questi, non so, Mind Life, assolutamente sconosciuti, tipo neozelandesi, una del genere. Ok, neozelandesi, a posto. Ok. Sì, tutto molto strumentale. E però, ho anche ripreso un po' i vari Bootstape, così, insomma, ultimamente sto ascoltando robe molto più... Minchia. Sempre di elettronica, ma un po' più strumentali rispetto alla forma canzone, e mi sta mischiando molto sui suoni, sull'idea di magari fare dei pezzi più strumentali, canzoni da parte mia, però con un mood un po' più proprio da DJ set, quasi come se cioè sto pensando come se i miei pezzi nuovi dovessero essere messi in un DJ set, no? Ok. E magari un po' più veloce, un po' più io mi immagino adesso questo cambio di 1000 punti da tipo, non lo so, DJ setter bello prepotente. sì, no, ma poi appunto mi piace sempre suonare tutto, ovviamente, però ecco, essere un po' più DJ friendly, per cui se un DJ dice ehi, bravo, questo 1000 punti, potrei mettere un suo pezzo nel mio DJ set, può farlo, esatto, senza problemi. Bellissimo. Direi che, cioè, la danza, il ballo è sempre il filo conduttore di tutto ciò che fai, tutto ciò che fate. Quindi sì, beh, la direzione sarà quella. Come dicevo all'inizio intervista, comunque, insomma, ai microfoni, ma in realtà anche alle pagine di Futura non sei nuovo. Sei stato un ospite della Sofa Concert a ottobre a Bologna. E volevo chiederti come cambia sicuramente il tuo approccio ai live a seconda del contesto in cui sei, quindi, e cos'è che preferisci? Puoi dircelo, cioè adesso ormai il sofa è lontano, puoi dircelo. Ma guarda, diciamo che il contesto da concerto acustico è molto carino nel momento in cui come dire, hai un rapporto anche dialogo con col pubblico che ti è intorno. Sì. Però, guarda, sarò sincero, non è la non è la tua dimensione. Non è la mia cosa preferita. No, perché, appunto, come dicevi tu, la componente del ballo è fondamentale. È fondamentale nel mio progetto, e quindi chiaramente facendo voce chitarra è un po' come dare un'anteprima dei miei pezzi, delle mie canzoni. Sì. Però mi manca quella roba lì fondamentale del divertimento, del fare casino, del fare party. Quindi diciamo che è una cosa che faccio quando non si può fare altrimenti, ma mi piace molto di più la situazione classica da club, da concerto col palco, serata, insomma, un po' così. Ok, ma pensi che ci sia qualche artista milanese o non, chiaramente, che condivide il tuo stesso approccio al palco e con cui magari ti piacerebbe condividerlo? Intendi di, cioè, un po' una roba un po' ballerina, così? Sì, una cosa un po' ballerina. Qualche ballerino come te. È una bella domanda, perché tutti i progetti italiani che mi vengono in mente in realtà non sono di Milano, un po' di, non so, le Fenze Antonacci, Bruno Bellissimo, sì. Un po', vabbè, Nubinea, su proprio anche altri livelli, sono tutti queste realtà, non so come dire, con un piede nella musica suonata e un piede un po' nel club, sì. Un po' dove, esatto, che è un po' dove vorrei andare io, però proprio Milano, ci sei solo tu, Eddie, no. Solo tu. Solo tu ci fai ballare. Allora, sicuramente c'è, ma non mi viene in mente. È un po' come quando ti chiedo, ma qual è il tuo film preferito? No, sì, lì vuoto. Esatto, non te ne viene mezzo, quindi sei vago. Esatto. Ma no, devo dire, la scena di Milano è molto interessante al momento e mi piace molto il suo aspetto comunitario, no? Perché sì, al di là degli aperitivi e rinfreschi e tutte quelle robe lì, molto da Milano. Cioè, è molto bello il fatto che ci si conosce tutti tra musicisti, sì, produttori, eccetera, eccetera, e quindi è molto anche facile dare il via a qualcosa di nuovo. Di nuovo come collaborazione, cioè banalmente i ragazzi che suonano con me dal vivo hanno tutti altri progetti e come dire, ci è scambiato molte opinioni sui relativi progetti, così, quindi è molto stimolante secondo me come, sì, come situazione, anche se non suoniamo la stessa cosa, c'è molto scambio, insomma. Sì, ma dimmi qualcuno con cui vorresti collaborare. Cioè, c'è un nome per cui... Di Milano o può essere di qualsiasi... No, puoi spaziare anche oltreoceano, hai proprio la libertà totale. Anche oltreoceano, wow. Sì. Vabbè, oltreoceano, beh, ti direi che Kevin Parker, di Kevin Parker, per un po'. Ah, vabbè, ok. Ah, vabbè. Se no, vabbè, ma in Italia, tipo, mi piacerebbe fare qualcosa con Giorgio, poi sarebbe figo. Ah, molto figo. Un crossover tra rock, proprio che non c'entrano tra di loro, ma secondo me potrebbero essere super interessanti. Guarda, Eddie, se riesci a far ballare Giorgione, cioè, hai vinto. Cioè, lì... Io metto la base e lui ci canta sopra, no? Esatto. Perché lui è molto restio al ballo, però possiamo fare una roba del genere. Sperimentiamo. Va bene, di guarda, consigliaci un brano. Questa è un po' la domanda come il tuo miglior film, il tuo film preferito. E consigliaci un brano e da mandare in onda. Ma guarda, ti direi Lost in Yesterday dei Tame Impala, ecco, in tema. In tema. Va bene, grazie mille, allora. A presto. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. When we're you. Questa era la proposta musicale di Eddie, Mille Punti. Io vi invito un sacco ad ascoltarli perché noi di Futuro, appunto, come dicevo ad inizio puntata, li amiamo, quindi amiamo questo progetto musicale, ci siamo fatte conquistare dal basettone, il pantalone a zampa e la mossa ballerina, e quindi vi invitiamo ad ascoltarlo. Vi ricordo come ogni settimana che le nostre interviste sono online sul sito di Radio Città Fugico, quindi le trovate sotto la sezione podcast, quindi anche questa sarà ascoltabile nei prossimi giorni se non siete in onda in questo momento. Io sono Francesca, la prossima puntata è martedì ore 16:30, sempre sulle 103.1 FM.